Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera vogliamo lanciare un piccolo allarme, diciamo così. Per farlo però partiamo da un concorso. Riprenditi la città, riprendi la luce, promosso da AIDI, che è l'Associazione Italiana di Illuminotecnica. È un concorso video che invita a raccontare la città attraverso una chiave precisa, l'illuminazione. Ne parliamo perché c'è in corso una specie di paradosso, vedremo con quali conseguenze. Il paradosso è che oggi si parla moltissimo di illuminazione pubblica, ma esclusivamente in termini di risparmio energetico oppure di cosiddetti lampioni intelligenti, ma dell'illuminazione in quanto tale, della sua qualità, si parla pochissimo. Allora, a coordinare questo concorso che vuole riportare su questo tema l'attenzione c'è Margherita Sus, che è architetto e progettista di Illuminotecnica, titolare dello studio associato GMS, lavora moltissimo in Italia e anche all'estero, fanno tante cose, ne citiamo due: l'illuminazione di Venezia e quella del nuovo Ministero dell'Educazione iracheno. Buonasera Sus. Eccoci qua, buonasera, buonasera. Allora, ci parli subito del concorso. Il concorso è organizzato dall'Associazione Italiana di Illuminazione, come mi sembra tu abbia già menzionato. Sì. È un concorso che è rivolto sicuramente ai giovani under 30, che possono inviare un breve filmato di 60 secondi che può essere realizzato con qualsiasi strumento tecnologico, quindi videocamere, smartphone, esatto, tablet, eccetera. E come tema? Devono interpretare e farci capire come loro vedono l'elemento della luce nella città in tre ambienti tematici diversi: i luoghi della cultura, i luoghi del movimento e i luoghi del tempo libero. Ha una scadenza che è prevista per il 14 febbraio del 2014 e una bellissima premiazione prevista al Teatro La Fenice di Venezia. Mm-hmm. E Venezia non è una città a caso, perché la riprogettazione della città di Venezia ha messo in luminotecnica, ha messo in evidenza proprio questa necessaria qualità della luce, perché progettare illuminazione pubblica a Venezia non è come progettare illuminazione pubblica a Milano e non potrebbe essere come progettare illuminazione pubblica in un'altra città. Ecco, allora, perché veniamo un po' al motivo per cui voi sentite anche l'esigenza di questo concorso, ed è parlare della qualità dell'illuminazione notturna, perché oggi si pensa solo all'efficienza energetica e il risultato è che c'è anche qualche effetto paradossale di cui vorrei che ci parlasse subito. Ecco, diciamo che sicuramente l'aspetto è importantissimo, anche perché ha delle ricadute chiaramente economiche notevolissime, quello, certo, associato al risparmio assolutamente energetico. È il motore anche un po' di tutto questo ricambio, esatto, no? Per cui noi tutti esattamente, cioè, ci troviamo ad affrontare progetti di riqualificazione. Paradossalmente, come giustamente avete anticipato, paradossalmente cosa succede? Che il semplice relamping delle sorgenti luminose, cioè a favore, sostituzione a sostituzione di lampade a favore di lampade per esempio meno a LED, energivore, tipicamente. Esattamente, banalmente la sostituzione con lampade LED, non andando a diciamo analizzare in maniera importante la geometria dell'impianto nel quale si sta facendo relamping, può portare a un effetto di percezione finale sul contesto, sì, urbano, okay, non particolarmente apprezzabile. Diciamo, queste luci per esempio possono essere molto direzionali e se vanno a sostituire delle lampade che invece irraggiavano la luce con un angolo ampio, il risultato può essere una illuminazione a macchia di leopardo che è molto pericolosa per la sicurezza stradale. A casa propria uno lo sa benissimo, se vuole illuminare tutta la cucina non mette un faretto, no? Diciamo mette che un bulbo rotondo. Di perdere spesso, se sì, non si guarda la geometria dell'impianto, quindi l'interdistanza, è ad esempio l'uniformità. Oh. E il parametro dell'uniformità è quello che permette a un pedone di attraversare per tranquillamente esempio la sua strada senza essere schiacciato dall'auto, dall'auto che passa. C'è una bellissima, esatto, citazione proprio sul vostro sito di Oscar Wilde, dove la luce splende e le ombre sono più nere. Poi lui ovviamente era uno che si struggeva alla grande. Beh, certo. E ci sarà chissà quale metafora dietro, si può anche immaginare ma quale. Ma per noi è meravigliosa. Però come citazione è anche un dato, ci ricorda un fatto percettivo molto importante che appunto di solito sottovalutiamo, no? Certo, che è poi il parametro della luminanza, diciamo, che è una grandezza fotometrica, ma è molto semplice perché è la quantità di luce realmente percepita dall'occhio umano. concetto, è il concetto che noi tutti gli oggetti, tutte le cose che percepiamo, le percepiamo perché si stagliano rispetto a uno sfondo. Se ci viene a mancare questo contrasto tra l'oggetto e lo sfondo, perdiamo la percezione di quell'oggetto. Certo, quindi avere un'illuminazione uniforme e magari di giorno evitare di avere una selva di pali, no? Ecco, questo poi è un altro, bruttissima, esatto, quando sorge questo è un altro il sole. Aspetto che al concorso piacerebbe venisse dato come feedback. Grazie Margherita Sus. Prego. Per tutte le informazioni sul concorso www.riprenditilacittà.it senza accento sulla A. Buona serata, a domani.